140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi di spettacoli questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Gli spettacoli dalla viva voce dei protagonisti nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Cinema Odeon, Milano. Prima TV, poi cinema, mille personaggi, tante parolacce, gag irresistibili. Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio tornano con I due soliti idioti. Un film poetico e intenso sul rapporto combattuto tra padre e figlio. Non era il nostro. È bello che qualcuno ci veda anche della poesia, a me fa piacere. Beh, qualche persona che purtroppo ha dei disturbi, posso dire, vederci nella poesia, nei soliti... No, scherzo. No, c'è anche quel lato lì dei soliti idioti, perché alla fine quello di Ruggero e Gianluca è un rapporto tra padre e figlio, quindi è una storia d'amore, quella loro, di un amore filiale e paterno. Però sì, chiaramente oltre al dai cazzo e a tutta, diciamo, la cattiveria, le parolacce, il cinismo, c'è anche questa roba qua. Però è vero che Gianluca, nonostante padre gli ne faccia tutti i colori, gli vuole bene perché è un padre, gli vuole bene comunque alla fine, te ne può comere tutti i colori, ti puoi allontanare, ritrovare, poi gli vuole bene, forse la poesia sta in quello. Speriamo. E poi è vero che Ruggero non può fare a meno del figlio. Mai. Anche se lo manda sempre a quel paese famoso. Non ne potrebbe fare a meno, perché se no con chi sa abita. Certo, cioè l'uno senza l'altro sarebbero morti. Papà, secondo te li ho presi? E speriamo, Gianluca, se no che cazzo spari a fa? E poi non ti preoccupa, sta piano dei suicidi, ma non li leggi i giornali. Vabbè, ma cosa ne vuoi sapere? Che cosa vuol dire uccidere un uomo? È una cosa che ti logora dentro per tutta la vita. Oh, ma che cazzo sta a fare con sta pistola? Ma che, ma la punti addosso? Questi sono strumenti di morte, Gianluca! Vanno maneggiati con una certa perizia! Qua può partire in colpo da un momento all'altro! E poi certo che l'ha ammassata una persona, papà! Erano le 15:18 del 15:18. Io e Brigitte e Bardose stavamo nascondendo dai nazisti, stavamo abbracciati stretti, una botola sotto il pavimento a casa di Edoardo. Ma papà! Ma nel 15-18 mica c'erano i nazisti. L'impressione è che questo film sia stato scritto con una storia organica, che vi siate messi a fare una vera sceneggiatura, cioè l'altra volta avevate giocato di più. Sì. Ma noi in realtà abbiamo la possibilità e la libertà di fare un po' quello che ci pare, che è un grandissimo privilegio e un grandissimo lusso, sia nella prima occasione che nella seconda. Però abbiamo fatto il film che volevamo, cioè noi eravamo veramente convinti e felici del primo film, poi ha subito delle modifiche, aveva dei difetti, un po' di inesperienza, di incoscienza. Per il secondo film è stata la stessa cosa, quindi volevamo fare questo tipo di film e l'abbiamo fatto, e per noi ci siamo riusciti, siamo felicissimi del film. Ma Pasqualino, ma che linguaggio è mai questo? Per punizione tu Ave Maria e Padre Nostro, purificazio. Padre Giorgio, ma che linguaggio è mai questo? Tu Ave Maria e Padre Nostro pure per lei. Purificazio. Vabbè, padre, lasciamo perdere il Padre Nostro, Ave Maria. Qui la chiesa è piena, capite? È piena. Pure in sto momento che la messa sta in crisi, che tutti sanno guardare in televisione. Dobbiamo fare uno show indimenticabile, padre Giorgio. Uno di quelli che la gente dirà, io c'ero. E poi famo tutto esaurito tutte le domeniche. Sa, ricorda la scaletta? Sì, ma il Padre Nostro lo facciamo oppure no? Certo che lo facciamo, per cavallo di battaglia. Sì, ma non l'abbiamo provato, santifico il nome, la prima o la seconda strofa. Padre, poi, lei mi venga a chiesa. Se ci chiedono il bis? Se ci chiedono il bis, famo Gesù d'amore acceso. Anzi no, la per gloria di Deum, che breve si battono i mani. Sì, ma qual è? Sull'altare! Andiamo! L'anteprima milanese alla quale ci troviamo arriva sempre il giorno dopo l'anteprima romana, quindi ci sono già le critiche. Voi le avete lette questa mattina? Cosa ne pensate? Vi importa qualcosa di quello che scrive la stampa? Ah, noi le abbiamo lette, sì, ci importa, le leggiamo con curiosità e per capire come... Io vedo che rispetto all'anno scorso per fortuna un po' la polemica sulla volgarità c'è stata ancora, ma meno dell'anno scorso. Ho visto che c'è stato il tentativo di capire di più il fenomeno e quello che vogliamo raccontare con queste famigerate parolacce, che noi raccontiamo un mondo che possiamo raccontare forse solo attraverso quel tipo di volgarità lì, perché quel mondo lì è volgare. Però anche ieri lo dicevamo, noi, la volgarità non è tanto nella parolaccia, ma nel mondo che rappresentiamo, che è volgare e che noi cerchiamo di rendere in modo comico. E le critiche ci interessano, ma alla fine devo dire sinceramente no. No, cioè, nel senso che no. Le critiche ci interessano perché è importante che si scriva di un film, perché vuol dire che ha attirato l'attenzione. E poi che siano positive o negative, l'importante è non crederci mai alle critiche. No, non bisogna mai credere alla stampa. Cioè, mai, don't believe your own press. Veramente è una cosa che si, cioè, è proprio il primo comandamento di uno che fa questo mestiere. Quindi siamo felici che i giornalisti siano interessati al film e accettiamo le critiche. Grazie. Sì, però ho capito quello che dico, è che queste critiche, no? Poi io ho letto 40 articoli oggi tra internet e giornali, poi un po' dicono sempre tutti la stessa cosa, non, sempre le stesse domande, e non vedo qualcosa che mi fa crescere, diciamo, no? Una critica costruttiva che dico, ah, però, vedi, forse l'unica critica costruttiva che mi è piaciuta è di Giusti, che ha detto dovete smetterla di giustificarvi. Perché vi chiedo, vi dico che siete volgari. E è vero, non dobbiamo giustificarci. Noi, questo è il nostro lavoro, e non dobbiamo chiedere scusa per una cosa che ci piace, in cui crediamo. E quella è la critica, diciamo, che ci è arrivata, che mi è piaciuta di più. Allora ti chiedo cosa non ti hanno mai chiesto e che avresti voluto che ti chiedessero. Li ho azzeccati tutti i tempi. Bravissima, ammazza. Questa è la giornalista. Questa è la giornalista. Radio 24, questa, no, questa, certo, è una risposta intelligente con i tempi coniugati bene. Cosa avremmo avuto? Boh, perché mi sono messo nella merda. No, beh, per esempio, no? Cioè, io non lo so, ragazzi, questi sono due tipi che fanno sei personaggi in un unico film, che interagiscono fra di loro, che fanno cinque maschere diverse nello stesso film. Cioè, nessuno ci ha mai chiesto, o non lo so, cazzo, ci vuole grande capacità di trasformismo. Cioè, sembra che proprio questa cosa passi inosservata. Invece da parte nostra c'è grande orgoglio nell'aver fatto un film che è ricco di tanti personaggi diversi, e secondo me è ricco anche della nostra capacità di rendere questi personaggi veri, tanto che entrano nelle case della gente e la gente parla come noi. E invece sembra che vabbè, oh, avete fatto così, però siete volgari. Però siete volgari. E invece in Italia questa roba qua non la fa nessuno, e quindi noi siamo molto orgogliosi è di vero, questo. Bravo, è vero, è vero. E poi però vorrei che smettessero di fare alcune domande, tipo spiegatemi la vostra comicità. Perché fate ridere? Cioè, io non posso dirti perché faccio ridere o per spiegare, è come se mi racconto la bazzetta e poi te la spiego, la rovino. Vorremmo smettere di parlare di noi, della nostra comicità, di quello che facciamo, e sentire la vostra opinione. Secondo te perché faccio ridere? Ma me lo devi dire te, non te lo posso dire io. E allora ogni volta ci sono queste domande che per noi sono complicate da dare delle risposte, perché non è che noi sappiamo perché sì, facciamo ridere. Cioè, meno complicati, cioè, ragazzi, sì. Semplice, è una commedia, è veramente un film che se ti fa ridere bene, se non ti fa ridere, speriamo ti faccia ridere il prossimo. Ecco, ma con grande leggerezza, sì. Quello noi portiamo, e poi a voi i commenti. Esatto. Però adesso... no, è la battuta di Marsecchi che ha fatto ieri. Grande battuta di piedi. Amore, sì? Che succede? Niente, niente. Siamo nella nostra casetta nuova, senza tuo papà. E allora, che succede, amore? Non è questo. Ti faccio vedere, ok? Sì. Aspetta, aspetta. Vedi, qui lo spiega benissimo, guarda. Il riempimento dei corpi cavernosi in determinate condizioni di stress può non avvenire nella maniera corretta a causa della carenza di pressione nei capillari sanguigni, vedi? Mm. Poi qui c'è l'apparato riproduttivo maschile, vedi? Sì. Qui c'è quello femminile. Mm-hmm. Amore. Dimmi. Sai che mi sono sbloccato. Dai, dai. Posso? Sì. Grazie. Ma chi è? Ma chi è? Chi vuoi che sia? È mio padre. Non va più via. Ma si vedrà che se ne va, aspettiamo. Ci avete messo i giovani che scaricano i film, la crisi vista anche in maniera abbastanza buffa con tutti quelli che dicono la crisi è un'opportunità. Avete messo un sacco di cose in filigrana, però così le avete buttate lì. Brava ragazzi, grazie, ma ragazzi, qui, ma meno male. Ma Radio 24 puoi fare interviste solo con te, veramente. Io sì. La faccio apposta così poi mando in onda tutto anche questo, ovviamente. No, guarda, certo, noi abbiamo messo tanti spunti affrontati chiaramente in maniera un po' superficiale, perché questa è la commedia, io non devo fare un approfondimento sul nostro periodo storico. Io tocco quei punti che sono le cose che vedo in giro per la strada, quindi la crisi, c'è la crisi, poi c'è chi dice no, la crisi invece non c'è, c'è chi dice che è un'opportunità, la guardia di finanza che ti controlla, però non si capisce perché ogni tanto arrestano pure quelli della guardia di finanza perché sono stati corrotti, quindi dov'è il bene e il male, no? Sì, noi abbiamo affrontato tanti spunti con grande leggerezza per cercare di sorridere sul nostro momento storico, soprattutto di fare un film che non sembrasse ambientato su Marte, ma che uno va al cinema e dice cazzo è vero, in questo momento succede questa roba qui. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Il cinema nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Palanoir, Courmayeur. Al Noir in Festival Carolina Crescentini, con Breve storia di lunghi tradimenti e madrina del premio Zucca Spirito Noir per scrittori esordienti. Mia mamma è preoccupata. Mi dice sempre, ma perché non ti fanno fare la brava ragazza? Non lo so mamma, evidentemente non ho la faccia, non so. Anche qui, insomma, ti abbiamo visto in un film in cui sei... Sì, lei è un personaggio particolare, una di quelle brutte persone che è bene non incontrare, però allo stesso tempo io sono convinta che lei sia un bluff e ho cercato di giocare su questo perché è una donna costruita a tavolino da suo nonno. Capiamo, visto che non si parla mai di genitori, che probabilmente è un'orfana, cresciuta dal nonno, ha studiato in scuole internazionali, si è formata per essere un uomo sul taccaspillo in qualche modo, ha una maschera che è proprio il suo look da super donna affascinante, ma costruita, è terribilmente costruita, anche il trucco è fatto in un modo che è come se fosse la sua maschera di guerra. Ma la realtà dei fatti fa di tutto per essere spietata, fa di tutto per avere un rapporto con l'altro sesso di tipo consumistico, se vuoi, ma secondo me perché non è capace avere rapporti, perché lei è sola come un cane, vive negli alberghi, l'unica cosa che sa fare è dare ordini e quando vede davvero gli effetti delle sue azioni non è in grado di sostenerli, non a caso poi si sente male proprio fisicamente, perché ha una somatizzazione di tutto ciò e quindi ci prova a essere l'icona del male, ma non la regge. Sono Battistoni, di solito se ne occuperei di queste operazioni. Sono Cecilia Schwartz e sono il legale rappresentante della nuova proprietà del Bancolario. Giulio, si può sempre dire di no. I'm thinking about the future of the world. Hanno investito sui disastri prima che accadessero. Una scelta. Finalmente so da che parte stai. Beh, io dico che in tutti e due i casi andrebbe a finire nello stesso modo. Ci sono tanti registri in questo film e in tutti i film noir. E come si gioca da attrice nel passare tra le varie sfumature? Ma io ho sempre pensato che la contraddizione sia più interessante e sia veramente ciò che ci rende umani, perché non credo all'immagine esteriore di Cecilia Schwartz, questo personaggio, non ci credo la donna, perché sono una donna, perché prima di essere un'attrice sono una donna e conosco altre donne, mi guardo intorno e un personaggio tagliato con l'accetta nel senso di netto non può essere una persona reale e allora andiamo a giocare su quali sono i punti deboli di questa persona, quali sono i punti forti che non fa altro che usare per sentirsi sicura come noi, solo che su di me questa analisi io non la so fare bene come la faccio sui personaggi perché non ho la sceneggiatura della mia vita, però cerco di andare su quello che vivi e vedi e azione. Certe volte avrei voglia di ricominciare tutto da capo. Non so, andare in un luogo nuovo dove non mi conosce nessuno. Cagna maledetta. Non so, cambiare città. Non so, potermi mettere alla prova. Io la conosco questa sensazione. Si chiama crescere. Io ho 24 anni e tutti ancora mi considerano... Stop! 34, devi dire, 34 anni. No, scusate, ma io non la dico. Ma come non la dici? Dai, su, rifacciamola. No, 34. No, non potete obbligarmi. Quanti anni dimostro secondo te? Vedere, eh? Vai. Corinna, scusa, però... Bisogna sempre dosare alla perfezione per non andare mai oltre i limiti. Tu hai giocato anche con i limiti e con l'esagerazione, ad esempio in Boris tu giocavi moltissimo. Era finalmente potersi riscattare da una serie di cose viste. Perché allora lì c'è proprio quando si esaspera, è difficile stare in quel limbo. È difficile, è stancante. Io sudavo tantissimo quando facevo Corinna, perché è stancante, fisicamente stancante. È difficile, però sai, lei è matta, ha un problemino secondo me, una follia sua, e quindi devi stare là dentro. Se provi a ritornare, Carolina, nella tua razionalità, la guardi dall'esterno, allora non riesci a... Anche Corinna ha un solo aspetto umano allucinante, ma ce l'ha anche lei. È difficile, però quando poi molto schiettamente, quando ci sono dei grandi sceneggiatori come loro, tutto è più facile. E anche quando c'è la scuola alle spalle, perché tu sei una molto studiata. Beh, io credo che il talento naturale esista, ma che non ti può dire sempre bene nel trovare un personaggio vicino a te. E l'unica cosa che ti può aiutare è la preparazione. Io ho fatto il centro sperimentale, prima la scuola di teatro, prima ancora dei seminari, ma per diversi motivi. Primo, perché quando ho iniziato proprio all'inizio, io non volevo fare l'attrice, non sapevo cosa volevo, sapevo che volevo capire che cos'era l'attore, e quindi dovevo mettermi in gioco. Mettendomi in gioco ho provato delle emozioni forti, ho capito che mi piaceva proprio essere lì e che mi faceva sentire meglio, vivere meglio, guardare il mondo con occhi diversi. Allora ho iniziato la scuola di recitazione di teatro, proprio salendo sul palco il primo giorno dicendo: sono qui per capire se posso fare questa cosa, se non lo posso fare ditemelo, perché volevo misurarmi in qualche modo. Il centro sperimentale è stato fondamentale, perché sono 9 ore al giorno, 10 mesi l'anno, 3 anni, e lì capisci se lo vuoi fare o non lo vuoi fare questo lavoro, perché questo lavoro non è semplicemente l'espressione di un'emotività, è disciplina, metodo, sacrifici. Devi studiare tanto, perché devi cercare di capire cosa c'è sotto, perché tante volte succede che un regista non ti dirigerà davvero, perché succede che i registi sono più interessati all'aspetto tecnico che all'analisi del testo reale. Non tutti lo fanno, alcuni lo fanno, alcuni no. E quando non lo fanno lo devi fare te, perché non puoi andare lì e dirle, perché si vede se vai lì e le dici. E ci devi ragionare. Io ogni tanto tappezzo casa con dei fogli giganti con tutte le scene, in modo che sono ossessionata da queste scene e non le faccio andare via, ma semplicemente perché magari sto facendo altre cose, sto vivendo la mia vita, magari in quei 10 giorni ho un blocco che non giro, non devo girare, però ogni tanto butti l'occhio là e dici: ah, oddio. Poi vai a dormire e ti viene il pensiero, a volte succede nel modo più assurdo, che tu sei sul divano a farti un tè e inizi a fare la scena, perché la trovi, ci devi stare là, e piano piano le cose succedono. Poi ci sono più metodi. Alla fine io credo che le scuole hanno una cosa importante: ti insegnano tanti metodi finché alla fine trovi il tuo, che è la sintesi delle tante esperienze, che è perenne evoluzione, magari cambierà, però insomma io mi sento più sicura. Io mi ricordo ancora la prima intervista che ho fatto con te, perché tu eri veramente una ragazzina, sì. Eri un, ma lo sai ancora, eri un bocciuolo, lo eravamo tutte e due. Cosa provi tu rivedendo le tue prime cose? Beh, mi emoziona. Vabbè, a parte tutti gli attori quando si rivedono ti dici: Madonna, come sei cane. Cagna anche in foto. No, perché è così, purtroppo è normale. Però non so, se vedo H2 Odio, notte prima degli esami, mi emoziono. Io non sono mai più tornata allo Zoo Marine, dove facevo le scene con i delfini, perché so che mi metterei a piangere, lo so perfettamente, perché io quando ho fatto quel film ero ancora a scuola, era il terzo anno del centro sperimentale, ero la donna più felice nel mondo perché avevo finalmente beccato un lavoro dopo tanti lisci e tante porte in faccia, ma non sapevo proprio quello che stava accadendo, e quindi era tutto splendido ma tanto tanto puro. E se ritorno là, non che io adesso mi sia sporcata, però in qualche modo sono diventata più cinica. Ho capito anche gli effetti collaterali di questo lavoro. E se torno lì mi metto a piangere sicuro. Perché i delfini poi hanno fatto in modo, io ho iniziato proprio il film con le scene con i delfini, hanno fatto in modo che la mia attenzione si spostasse dal film ai delfini. La prima scena dovevo giocare con loro, primo ciak, primo giorno, dove il delfino mi ha dato una musata sul naso, che ricorderò, perché poteva rompermi il naso e far saltare qualsiasi possibilità di film. Però questa cosa, io ho sentito motore, azione, e però il cinema non esisteva, era il mio rapporto con i delfini, e allora sei libera, sei come loro, e il fatto che sei in acqua, che è un mondo altro, che non è il tuo, ti tutela. E quindi un giorno ci tornerò, ma ancora non ci sono tornata, però quando rivedo qualche immagine mi emoziono. Beh, che vi sembra? Brava! Bella, non tradirà mai. Che cosa hai in programma? Ancora cose un po' dark. Sto leggendo delle cose e vediamo. Vediamo, perché non so dove. Sto leggendo anche delle cose dark. Vediamo. Non so dove mi porteranno. Però sto valutando delle possibilità. Intanto me ne vado un attimo a riempirmi gli occhi di cose belle in giro, perché tanto gennaio per il cinema mi sa abbastanza fermo. Occupandoci noi di raccontare la vita, e beh, allora ti devi riempire gli occhi di vita sempre, perché altrimenti racconti un circolino stretto e piccolo troppo vicino a te. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.